Europa 24. La crisi ucraina, ma non solo, sul tavolo del vertice UE-USA che vede il presidente americano Obama per la prima volta a Bruxelles. Fra poco la conferenza stampa. È stata una colazione di lavoro corta ma intensa, quella che il presidente americano Barack Obama ha avuto oggi con il vertice dell'establishment comunitario qui a Bruxelles. I temi sul tavolo sono almeno tre: la crisi ucraina, il negoziato sull'accordo di libero scambio e le recenti intercettazioni telefoniche della National Security Agency. Dal 2001, ossia dagli attentati terroristici contro le Torri Gemelle a New York, le relazioni tra Stati Uniti ed Europa zoppicano. Gli interessi divergono, le differenze si accentuano. Il tentativo oggi sarà di presentare un fronte comune, in un momento in cui la politica internazionale mostra un preoccupante ritorno del confronto tra blocchi. Non è chiaro quanto la crisi in Ucraina migliorerà la relazione Europa-Stati Uniti. Da un lato questa dovrebbe rafforzarsi, dall'altro, tuttavia, anche su questo fronte, la visione di americani ed europei non è perfettamente coincidente. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Intanto l'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko ha incontrato stamattina a Kiev il commissario europeo all'allargamento Stefan Füle per discutere dell'attuale crisi ucraina e delle prospettive future dei rapporti fra Kiev e Bruxelles. Sono aumentate le allerte per la sicurezza dei consumi in Europa dal 2013 al 2014, lo dice il rapporto Rapex. Lo spiega Paola Testori Coggi della Direzione Generale per la Salute e i Consumatori della Commissione Europea al microfono di Valentina Furlanetto. C'è un aumento delle allerte, un aumento non importante, ma comunque circa il 4% in più delle allerte dell'anno scorso. Allerta vuol dire che si è identificato un prodotto pericoloso sul mercato e che viene ritirato, quindi il consumatore deve essere tranquillo che quando c'è un'allerta il prodotto viene ritirato. Quali sono i prodotti? Sono soprattutto indumenti, pellame, giocattoli. Un più 4% che deve preoccuparci? Direi no, la reazione deve essere, vuol dire che ci sono più controlli e che quindi troviamo più casi di rischio nei prodotti, perché diciamo non è che le importazioni sono cambiate, ma soprattutto aumentano i controlli e noi chiediamo agli Stati membri di vigilare sempre sul mercato. E soprattutto la Cina, ma anche perché la Cina è un grande paese produttore di queste categorie che le ho detto, la Cina è in testa per come paesi dove ci possono essere prodotti pericolosi messi sul mercato. Secondo Eurostat sono state 435.000 le richieste di asilo in Europa nel 2013, 100.000 in più rispetto al 2012. Le più numerose sono state presentate da cittadini siriani. Il 70% delle richieste si è concentrato in Germania, Francia, Svezia, Regno Unito ed Italia. Nel 2012 il 42% dei rifiuti municipali trattati in Europa sono stati riciclati o sottoposti a compostaggio, facendo registrare un forte rialzo rispetto al 18% del 1995. Lo fa sapere Eurostat. La Danimarca si classifica al primo posto, meno virtuosi invece Croazia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca, Lettonia ed Estonia. L'Italia si trova a metà classifica. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.